Episodio 17. 20. Ascolta la pubblicità. È primavera, in un verdeggiante bosco italiano. Il cielo è azzurro, gli alberi rigogliosi. La natura è un tripudio di suoni e di colori. Un uomo sta passeggiando e il suo cane gli trotterella accanto festoso. Questo è il loro sport preferito. Per qualcuno, la caccia è solo uno sport. Per noi della LAV è un crimine legalizzato. Aiutaci a fermarlo. Per informazioni 06 44 61 325 oppure www.infolav.org.